letto è caldo, ermetico come tavola di pietra. Nel respiro sode il giorno migliore. Il destino ha voluto per me che mi si ricordasse dopo morto. Quindi c'è tanto tempo ancora nostro. Il sentiero di pace si muove sotto piccole lenzuola calde, mentre fuori piove sopra le invidie delle nostre coccole. È da quando sono mistico che cercano di farmi arretrare. La gente normale è così banale. Ci attendono giorni curiosi. Lascio stare tutti i tuoi amici. Sono solo invidiosi, brusi rumorosi. Ho il mondo in mano e sei tu tutta la mia vita. Lo vedo nei tuoi occhi che sei ferita. Sarò bravo a far tornare il tuo cuore sano. Ora pensa al calore di due cuori che si strofinano. Fanno musica in ore d'amore. E nella terra promessa sconfinano. Niente sostanze ora, solo un po' di redenzione. Dove il mondo fa prigione, noi troveremo ribellione. Libertà contro la finzione, perché non c'è cosa più vera di due cuori che fanno l'amore, pozione di una nuova era, primavera sognata. Sostanze ora, solo un po' di redenzione. Dove il mondo fa prigione, noi troveremo ribellione. Libertà contro la finzione, perché non c'è cosa più vera di due cuori che fanno l'amore, pozione di una nuova era, primavera sognata.